Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è Claudio Morici in Racconti Brevi. Come è andata oggi, tesoro? Insomma, una giornatina niente male. Mi dispiace. Vabbè, dai, lasciamo stare, va. No, no, se vuoi ne parliamo. Preferisco di no, già lo sai come sono fatta, poi mi arrabbio ancora di più. Va bene, come vuoi tu. E tu invece, com'è andata la tua giornata? Abbastanza bene, dai. Siamo arrivati alla fine del progetto, ci hanno già scritto che è andato molto bene. In realtà, tesoro, sembra che l'anno prossimo ce lo vogliono rifar fare a Londra, lo stesso. Immagini, Londra, non è fantastico? Che ci mangiamo per cena? Non lo so, quello che vuoi tu. Boh. Decidi tu, dai, tesorino. Dai, per me è lo stesso, basta che sei contento tu, dai. Allora, una pasta, che dici? Va bene, metto sull'acqua allora. Certo, sempre la pasta, l'abbiamo mangiata anche ieri, l'abbiamo mangiata. Come vuoi tu. No, no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Guarda, io sono uno che mangia tutto. Lo so, quante volte me l'hai detto. Io sono uno che, io di qua, io di là. Facciamo la pasta, facciamo. E tesoro, domani, che giornatina ti aspetta domani? Ma niente di particolare. Dai, non vai al lavoro, se vai al lavoro qualche cosa succede, no? Se vai al lavoro. In effetti, allora, sembra che domani abbiamo questa presentazione per il nuovo cliente di Londra, no? Ma io È vorrei. sempre io. Cosa dici, scusa? Sempre io vorrei di qui, io vorrei lì, io sono il tema, perché non mi chiamate il mio di lavoro, di quello che faccio io invece? Hai detto tu che non ti andavate a parlarne, scusa. Ho capito, ma ciò non toglie che tu non me lo possa domandare, no? Ah, non avevo capito. E te lo credo, sei sempre concentrato sulle tue cose, sempre io. Ok, allora come è andata al lavoro? È facile adesso, E vabbè, ma come devo fare? niente, ormai è proprio tarda. Non fa niente, succede, succede, succede. Mi dispiace. Non fa niente, cambiamo discorso, cambiamo discorso. Il meccanico poi ti ha detto della macchina. Un casino, guarda, sono 1.000 euro per ripararla. Che? Assurdo, no? E certo, ne varrà 2000. Infatti, mi sa che questa volta non la riparo. Ma dici davvero? Cioè, secondo te riesci a organizzarti senza macchina? Sarebbe il mio sogno, perché io penso che. Ebbene, Cosa, scusa? sempre io. Ma veramente. Io penso di qui, io penso di lì, ma sempre così andiamo a finire. Ma pensi che io non voglia niente della vita? Ma pensi che io non abbia dei sogni? No, cioè sì, ci mancherebbe. Guarda, perché non mi chiamare i miei sogni? Ho capito. Sei tu che mi hai domandato come facevo senza macchina. Ho capito, ma uno fa la domanda e l'altro risponde, no? Ci si alterna, no? Allora, come va con la danza? Ho lasciato, non mi interessa più. Ma come ha lasciato? Eh sì, mi sono scritta a fotografia, pensavo l'avessi capito, l'hanno capito tutti. Cosa? Che ho lasciato danza per fare fotografia. E da cosa, scusami, avrei dovuto capirle poi tutti chi? Da tanti piccoli particolari, ma non sono troppo concentrato dentro di te, sempre per aspettare io. Potrei avere un esempio di questi particolari che avrei dovuto notare? Tanti, tanti. Dimmene uno, dai, dimmene uno. Ok, allora l'altra volta ti ho chiesto che ne pensavi del bianco e nero, no? Se per te non ti dai le foto in bianco e nero a colori e abbiamo litigato, te lo ricordi? Eh sì, perché tu hai detto a colori, ti sei subito arrabbiata. Ma allora non hai capito niente, io mi sono arrabbiata perché in quel momento tu non avevi capito che dedicavo tutta me stessa alla fotografia. E poi certo anche perché non hai motivato la tua risposta. E che te devo dire, se mi piacciono più le foto a colori, mi piace. Ma ci sarà un motivo, no? E va bene, allora quelle in bianco e nero mi fanno arrabbiare perché uno basta che fa le foto in bianco e nero è un artista, no? Bianco e nero uguale artista, dai, non te guarda. Questo penso. Sì. Tu non le faresti in bianco e nero. Io non le farei. È sempre io, vedi, cavolo, poi c'è la relazione, ma senti! Ma che sei tu che magari. È io che penso che quello in bianco e nero non te ne frega niente, scusa. Certo, ma se poi litighiamo, come faccio a chiedertelo? Come faccio ad aspettare che tu me lo dica da sola, no? Se litighiamo. Ti arrampichi sugli specchi come sempre. Posso parlarti almeno di com'è questo nuovo corso di fotografia? Certo. Se mi dai questi 20 secondi senza parlare di te, 20 secondi, ok? Oh, allora, mi sembra ben fatto. I professori sono tutti dei professionisti di un certo livello, gentili, ti dedicano anche un sacco di tempo. Certo, 6 mesi quasi tutti i giorni non è facile. E poi c'è la questione delle materie a scelta. Ecco, io non so se fare storia della fotografia o tecnica dello sviluppo in camera oscura. Tu che dici? Sei sicura che lo vuoi sapere? Eh sì, tu che dici? Non puoi darmi un consiglio? Sicura che vuoi saperlo proprio da me? Eh certo, cavolo, ti dà fastidio per una volta entrare dentro un mio argomento? No, ci mancherebbe. Allora, c'è un amico mio che dice che potrebbe essere meglio tecnica dello sviluppo. Lo dice lui? Sì. Non te? No, lui lo dice lui. E perché penserebbe questo il tuo amico? Perché storia della fotografia, so due palle così secondo il mio amico. Ah, davvero? E come si chiamerebbe questo tuo amico? Davide. Davide? Non mi hai mai parlato del tuo amico Davide? Non lo vedo da un sacco di tempo. Il tuo amico Davide? Sì. Ma siamo sicuri che è davvero un tuo amico? Eh sì, è un mio amico. E chi lo dice? Cavolo, lo saprò io se è un mio amico, no? Eccoli, sempre io. Ma porca miseria, 2 secondi che si stava parlando di me, 2 di numero, guarda, ti saluto, che oggi sei tutto immerso dentro te stesso, di oggi sei insopportabile. Ma sei tu che eri nervosa per il lavoro? Sì, ma tu mi hai detto che era una scarsa casa. Io? Ancora questo io, basta, esisto, sono qui, no? Te ne vuoi accorgere, sono qua. Ci sto provando, Ciro, ma sembra davvero difficile, ho paura a scegliere la forma linguistica della risposta, hai presente? Comunque è colpa mia perché non ti accetto per come sei, ecco. Tu sei fatto così, ma io non riesco ad accettarti, ecco. Ma come si fa? Mi aiuti, cavolo? Come facciamo? Se secondo te c'è una via d'uscita? Egli pensa di sì. Cosa, scusa? Dico che egli pensa di sì, c'è una via d'uscita. Chi? Egli. Ma sei impazzito, sei? Egli ritiene che usare egli sia l'unica soluzione. E se poi mi devi parlare veramente di egli? Guarda, egli non si usa più nell'italiano parlato, quindi... Allora è fatta! Egli crede di sì. Ti amo, tesoro, è fatta, ti amo tantissimo. Anche egli ti ama. Grazie. Grazie. Io mi occupo anche di saggistica, leggerò un breve saggio, ma prima una domanda: quanti di voi non sono mai stati lasciati nella loro vita dal proprio partner? Quanti? Alzi la mano, neanche una mano alzata. Ecco, lui, quel bambino di 5 anni no, non sono mai stati lasciati dal proprio compagno. Ecco, anche te, no, un bambino di 5 anni, vedrai che poi dopo succederà. Dunque, sapete di cosa parlo, quindi se dico che essere lasciato dal proprio partner è una delle esperienze più brutte, una delle esperienze che si avvicina di più alla morte, un vero e proprio lutto. Perché pensi che non tornerà mai più come prima, che la persona con cui stavi insieme ormai è andata via, non ci starai più, non c'è più possibilità, è qui l'errore. Perché c'è sempre una possibilità. Scientificamente c'è sempre una su un milione, è quasi impossibile, per questo infatti ci si lascia, ma c'è sempre quel comportamento, quella cosa che puoi fare, quella frase che se dici ti fa rimettere insieme. Qui viene il mio contributo, perché questo breve saggio si intitola 7 cose da dire alla ex per rimettersi insieme dopo che ti ha lasciato. Funziona. Vi leggo le cose una per una. La prima cosa per rimettersi insieme che bisogna dire all'ex, prima cosa: tesoro, posso chiamarti tesoro? Spero di sì. Tesoro, forse ti sei dimenticata, ma devo ridarti ancora 10.000 euro, vogliamo vederci? Seconda cosa da dire per rimettersi insieme: Tata, eccomi qua, che dici? Hai visto che sono cambiato? Dicevi che ero il solito musone, che non sarei mai cambiato. Invece, sto meglio con la barbetta un po' lunga, vero? Terza cosa da dire, ho un tumore, domani operano, non credo che, vabbè. Passi un attimino a casa mia stasera. Quarta cosa da dire per rimettersi, cioè... Allora, stammi bene a sedere, fammi parlare. Allora, ieri notte sono scesi gli UFO nel giardino di casa mia, fammi parlare, prima hai parlato te, tocca a me, fammi parlare. Mi hanno detto gli UFO che la Terra sta per essere distrutta dagli argoniani, ora ti spiego, fammi parlare. A meno che non riusciremo a costruire lo Zetari, un'arma potentissima, e qui arriviamo a noi. Allora, lo Zetari ha bisogno di un fluido rarissimo che tuttavia fortunatamente è ancora presente sulla Terra, ho quasi finito. Questo fluido è ottenuto solo dallo sfregamento del mio pene nella tua vagina, ci sei? È solo quello che penso. Anche a me non va più, ma è in ballo il futuro dell'umanità. Quinta cosa da dire per rimettersi insieme. Ta-da! Non mi riconosci più adesso, sono così cambiato che sembro un altro, vero? Infatti sono Giuseppe, scusami, Claudio mi ha coinvolto a fare sta cazzata, scusa davvero, non so proprio che, scusa cazzata. Sesta cosa da dire per rimettersi insieme. Sì, è vero, ho rovinato 2 anni della tua vita, ma solo perché sotto c'era un quadro dell'Ottocento dal valore inestimabile. Me ne sono accorto quando ho iniziato a scartavetrarti. Settima e ultima cosa da dire. Eccomi finalmente tornato. Eccomi. Che c'è, scusa? Che c'è? M'hai mandato a fanculo, so, m'hai mandato... Ci sono stato a fanculo, ci sono stato. Come non c'è... Non credi che sono... Ci sono stato! Ah, non ci credi che sono stato a fanculo! Oh, Eccola, questa qui, la piazza centrale di Fanculo, eccola qua, c'è un giardinetto bellissimo, ecco qua, questa qui invece era la cattedrale di Fanculo, una vista straordinaria, si vedeva da qui, eppure non potevo fare a meno di pensarti. Il mio cuore era sempre da un'altra parte, anche mentre stavo a Fanculo, mi manchi. Parla il vecchietto del 2089. I giovani... Oggi non chattano più, Noi chattavamo, questi no. Queste sono mani che hanno chattato tutta la vita. Oggi i giovani te li ritrovi che hanno le mani lisce come principini. I galli hanno ste mani, tutta la vita chattato, stato. Ai miei tempi ci si divertiva con poco, a noi ci bastava un computer, un social network, uno smartphone, quello che trovavamo. Mica come oggi. Oggi che ci hanno questi? Dai, che ci hanno? La telepatia. La telepatia di qui, la telepatia là. L'ho letto su telepatia, sentiamoci su telepatia. Oh, mio nipote mi ha fatto prova la telepatia. Non ci ho capito un cazzo. Oggi i giovani li metti davanti a un iPad, s'annoiano. Li vedi sull'autobus, per strada, tutti immobili con le mani in tasca, tutti a leggerci nel pensiero. A telepatia di qua, ho letto su telepatia, sentiamoci su telepatia. E le dita. Questi si ritroveranno tutti all'età mia, con le dita anchilosate, datemi retta. Queste sono dita, tiè, guarda come sono, questi dita anchilosate, cioè, il governo lo sa, ci stanno le ricerche, ma non le tira fuori. Fa malissimo la telepatia, datemi retta, fa malissimo, dita anchilosate. Fa malissimo. Oggi poi come ti giri, vedi i profili abbandonati dappertutto, dai. Ogni giovane possiede almeno un profilo su Facebook, eppure non sa che faccia, tanto c'ha telepatia, ti dicono questi. Non si rendono conto i sacrifici che abbiamo fatto noi. Quando il wifi non c'è stava dappertutto. Quando c'era l'iPhone 4S che ha batteria, ti si scaricava dopo 2 ore, non trovavi il cavetto, dai a bestia mia, ma che ne sanno questi? La telepatia, ma vaffan. Ve lo ricordate? Il loading. Quando aspettavi che si caricava la pagina, il loading. Ecco, a me manca. E lì per lì me lo devo al culo, ovviamente, ma adesso che sono anziano, vedo le cose in maniera diversa e era bello il loading, mi manca. L'altra volta te vedo mio nipote Robertino immobile a guardare il soffitto in silenzio così. Gli faccio: ma che stai a fare, Robertino? Shh, zitto, nonno! Ma che stai a fare? Shh, zitto! Mi sto a rimorchiare una! Ma vaffanculo, te la telepatia, io ho fatto! Ma lo sai che faceva questa ai tempi miei? Ma sai che c'ha zitti zozzi su WhatsApp che gli mandavo? La mattina dopo stavo con due occhiaie così tutta la notte a chattare. Dopo un anno capivo che era un uomo. Ma che ne sanno questi? Ma che ne sanno? Datemi una tastiera che ta rovina questo. Datemi una tastiera che mi sente ancora lui. Datemi una tastiera che ta rovina. I giovani oggi sono soli. Perché gli amici che ti fai su telepatia non è la stessa cosa. Dici amico su telepatia, ma sai che non è amico vero. I giovani oggi mi fanno pena. Questa è la verità. Ora scusate che questa frase mi piace particolarmente, la vado a scrivere come ai vecchi tempi su Twitter. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questo pezzo mi è stato ispirato da un traslogo da San Lorenzo a Torpignattara. Il traslogo, una volta lessi una statistica, è la terza causa di malattia psicosomatica. Al primo posto c'è la morte del coniuge, vi dico solo questo, quindi il trasloco se la gioca benissimo. E io ho pensato a questo che vi leggerò adesso, durante il trasloco, e ispirato anche da un mio grande maestro che si chiama Remo Remotti. Quanti di voi conoscono Remo Remotti? Qualcuno lo conosce, meno male. Perché me ne vado da questa San Lorenzo tormentata, da questa San Lorenzo commercializzata, sempre più degradata. Me ne vado da questa San Lorenzo delle pizze al taglio, degli aperitivi a 5 euro, degli scrittori che fanno yoga, dei corsi di Tribal Fusion, dei corsi di Kung Fu Panda. Me ne vado da questa San Lorenzo dei corsi di laurea che finiscono tutti con la festa in piazzetta, coi garanti calabresi circondati dai tossici, scandalizzati, che se guardano i nipoti e pensano: gli abbiamo pure fatto studiare psicologia a questi. Me ne vado da questa San Lorenzo della facoltà di psicologia e della facoltà di spendere 600 euro per una stanza. La San Lorenzo dove chiudono i parchi, chiudono le biblioteche, chiudono le strade al traffico, chiudono i discorsi dicendo: beh, alla fine si sta tanto male, dai. Chiudono le altre dei bambini, ma aprono il supermercato 24 ore su 24 e ci fanno pure la festa coi palloncini. Me ne vado da questa San Lorenzo dove le librerie non fanno una lira, sebbene stanno a pochi metri dal centro universitario più grande d'Europa. La San Lorenzo degli sciottini per strada, sulla panchina, al mercato a Villa Mercedes, che c'hai una canna, vediamo se alle 15 al Marani. Me ne vado da questa San Lorenzo, vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Guarda, ho detto anche l'amico tuo prima, no, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? No, grazie. Vuoi qualcosa? Ci? Vabbè, dammi sti 2 grammi d'eroina così la famo finita, la famo. Me ne vado da questa San Lorenzo dove tutti vogliono andare a vivere, dove nessuno vuole andare a vivere. La San Lorenzo dove uno studente non ha mai parlato con un bengalese non ha mai parlato con un pancabestia non ha mai parlato con un radical chic, e un radical chic non ha mai parlato bene con i genitori, altrimenti non gli avrebbero dato tutti quei soldi per vivere come un coglione. Me ne vado da questa San Lorenzo. Me ne vado da questa San Lorenzo. Oh, ho scoperto la bicicletta, non puoi capire, 3 minuti per andare a Piazza del Popolo, 5 minuti per andare a Ottaviano, 10 minuti per andare all'Euro. Ma che cazzo di bicicletta ti sei fatto? Me ne vado da questa San Lorenzo capitale italiana delle fotocopie, dove entri ed esci sei sempre lo stesso ma un po' più sbiadito, a colori paghi 50 centesimi in più. Me ne vado da questa San Lorenzo borghese, questa San Lorenzo che ti fa pesare il culo, che ti fa pensare che tutto il mondo è San Lorenzo, che ti fa vedere a Garbatella come una popolazione lontana dove la gente è più garbata. Me ne vado da questa San Lorenzo che è meglio del Pigneto, perché si accoltellano lo stesso numero di persone, ma San Lorenzo è più tra di loro. Me ne vado da questa San Lorenzo, oh, mi sono arrivati 3 multe, l'Italia mi strazia, ma c'è 10 euro da prestarmi. Allora, famo così, andiamo da Giufà, se prendiamo un tè siamo seduti per 4 ore, così mi racconti bene di questa casa che dove sei in affitto, che forse me la compro io con i soldi di nonna, dai, pensa che bello, così poi mi paghi in nero l'affitto, cioè guadagniamo tutti, pensa che dai, andiamo a festeggiare, al macrobiotico, dai che macrobiotico che mi ha fatto mai tanto il pancino ieri sera, ma io sono 30 euro, sti cazzi, dai che macrobiotico, che cazzo ci frega macrobiotico. Me ne vado da questa San Lorenzo dove c'è il record europeo di distanza minima tra una chiesa e 100 persone che si drogano. Da questa San Lorenzo che lotta, che si difende, che stringe i denti ma perde contro se stessa. Questa San Lorenzo del circo del PD e del circo dei comunisti che si riempiono solo quando c'è la partita. Del cinema palazzo, su cui non posso fare battute perché ho gli ultimi spettacoli. Della palestra popolare, su cui non posso fare battute perché mi fanno un culo così. Me ne vado da questa San Lorenzo delle occupazioni, della municipale che ti misura col centimetro l'occupazione del suolo pubblico, arrivi lì mentre se stanno a tre bonghi in testa a pochi centimetri. Mi dispiace, i tavolini escono di 5 centimetri qua, ma se stanno ammazzati, c'è un bocco in testa, quello sta sanguinando, sta morendo, lo vedi? Me ne vado da questa San Lorenzo, è colpa degli speculatori edilizi, è colpa dei bengalesi, è colpa degli spacciatori, è colpa dei cani che cagano dappertutto, è colpa dei casalesi, è colpa dell'amaro lucano, è colpa degli agenti immobiliari, è colpa di Celestino, è colpa dei padroni dei cani che cagano loro tra una macchina e l'altra. È colpa di chi viene a comprare il fumo, è colpa di chi vende il fumo, è colpa dei vecchietti, è colpa dei fuorisede, è colpa d'Alfredo che con tutti i suoi discorsi strani e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. Me ne vado da questa San Lorenzo dove nessuno ha ancora capito quello che ci sta dietro tutto questo, cioè chi sta veramente facendo un sacco di soldi con questo meccanismo senza restare il minimo sospetto. Allora ragioniamo insieme, è importante. Li fanno nascere al policlinico, poi li fanno studiare all'università, li rincoglioniscono con i corsi di yoga, li mandano dallo psicologo a Via dei Sabelli, quindi gli vendono le droghe in piazzetta, l'ammazzano con la Peroni a 1,50, quella grande, e dove li sotterrano? Dove se la comprano la bara? Dove? I cassamortari, sono loro i burattinai di questo quartiere, i cassamortari che stanno a fare un sacco di soldi senza restare, controllano tutto il ciclo completo, vanno tutti a San Lorenzo, me ne vado da questa San Lorenzo che sta diventando una mezza merda. Poi come mi sistemo quei soldi, magari ritorno. San Lorenzo, addio. Grazie. Quanti di voi abitano a San Lorenzo? Alzino la mano. Nessuno? La conoscete? Questo pezzo mi è stato ispirato da un trasloco da San Lorenzo a Tor Pignattara. Il trasloco, una volta lessi una statistica, è la terza causa di malattia psicosomatica. Al primo posto c'è la morte del coniuge. Vi dico solo questo, quindi il trasloco se la gioca benissimo. E io ho pensato a questo che vi leggerò adesso, durante il trasloco, e ispirato anche da un mio grande maestro che si chiama Remo Remotti. Quanti di voi conoscono Remo Remotti? Qualcuno lo conosce, meno male. Perché me ne vado da questa San Lorenzo tormentata, da questa San Lorenzo commercializzata, sempre più degradata. Me ne vado da questa San Lorenzo delle pizze al taglio, degli aperitivi a 5 euro, degli scrittori che fanno yoga, dei corsi di Tribal Fusion, dei corsi di Kung Fu Panda. Me ne vado da questa San Lorenzo dei corsi di laurea che finiscono tutti con la festa in piazzetta, con i garanti calabresi circondati dai tossici, scandalizzati, che se guardano i nipoti e pensano gli hanno pure fatto studiare psicologia a questi. Me ne vado da questa San Lorenzo della facoltà di psicologia e della facoltà di spendere 600 euro per una stanza. La San Lorenzo dove chiudono i parchi, chiudono le biblioteche, chiudono le strade al traffico, chiudono i discorsi dicendo beh alla fine si sta tanto male, dai. Chiudono le altre dei bambini ma aprono il supermercato 24 ore su 24 e ci fanno pure la festa coi palloncini. Me ne vado da questa San Lorenzo dove le librerie non fanno una lira, sebbene stanno a pochi metri dal centro universitario più grande d'Europa. La San Lorenzo degli sciottini per strada, sulla panchina, al mercato, a Villa Mercedes, che c'hai una canna, vediamo se alle 15 al Marani. Me ne vado da questa San Lorenzo, vuoi qualcosa ci? No, grazie. Vuoi qualcosa ci? No, grazie. Vuoi qualcosa ci? No, grazie. Vuoi qualcosa ci? No, grazie. Vuoi qualcosa ci? No, grazie. Guarda, ho detto anche l'amico tuo prima, no, grazie. Vuoi qualcosa ci? No, grazie. Vuoi qualcosa ci? No, grazie. Vuoi qualcosa ci?

con Alessandro Corazzi, uno dei curatori del Festival del Teatro Patologico al Teatro Eliseo dal 4 al 14 ottobre. Alessandro, ben trovato. Ciao, ciao Federico. Ci racconti un po'? Sì, allora, cominciamo giovedì 4, Festival del Teatro Patologico. Il vero titolo del festival è 180 sogni, illusioni e speranze, perché appunto quest'anno cadono i 40 anni della legge Bazzaglia, la legge 180, sancì la chiusura dei manicomi, e quindi Dario D'Ambrosi, che è il direttore fondatore del Teatro Patologico, ha voluto dedicare il festival a questa importante ricorrenza. E presenteremo varie produzioni del Teatro Patologico, che come saprai svolge un'importante attività di teatroterapia. Ecco, appunto, raccontiamolo a chi ci ascolta. Sì, il Teatro Patologico, incarnato da Dario D'Ambrosi e da ormai quasi 30 anni, svolge questa attività di teatro integrato, di teatro con disabilità, in particolare nel caso del Teatro Patologico con disabilità psichica. Sì. E da quasi, ormai siamo al terzo anno di sperimentazione, che con Tor Vergata stiamo portando avanti il primo corso universitario integrato dell'emozione. È un percorso di formazione teatrale a livello universitario dedicato proprio a persone con disabilità psichica. Sì. Gli spettacoli che presenteremo al festival all'Eliseo dal 4 al 14 saranno proprio la produzione di questi tre anni di corso sperimentale. Sono tre diversi spettacoli: il Tito Andronico, il Pinocchio, il Tritto di Don Chisciotte, che ovviamente è ispirato a Don Chisciotte di Cervantes. Sì, sì. Senti, come saranno cadenzati in questi 10 giorni? Allora, ci sarà il 4 una serata inaugurale, che avrà anche l'onore di avere Claudia Gerini come madrina, e che vedrà in anteprima, prima quindi dello spettacolo, un convegno organizzato da Tor Vergata proprio di riflessione sulla 180, quello che ha significato 40 anni fa e quello che appunto è oggi la situazione. E poi appunto si apre con il primo spettacolo, il Tito Andronico, che andrà in scena poi per tutta la prima settimana. È uno spettacolo che è stato presentato lo scorso dicembre al Caffè La Mamma di New York e che riproponiamo adesso in apertura di festival. Poi nella seconda settimana di festival, 9, 10 e 11, il Pinocchio per la regia di Claudia Vigliante, e 12, 13 e 14 il Trip di Don Chisciotte per la regia di Francesco Giuffrè. Sì. Diciamo, tutti e tre questi spettacoli vedono protagonisti assoluti, proprio assoluti, sono in scena da soli gli studenti del corso di formazione universitaria di teatro integrato dell'emozione. Sì. Quindi sì, sono davvero tre spettacoli unici nel loro genere e davvero da vedere, anche perché insomma Dario D'Ambrosi mi ha istruito bene di dire soprattutto che questo corso universitario è stato presentato lo scorso dicembre alle Nazioni Unite a New York, il 4 dicembre in occasione della giornata mondiale della disabilità, e lo scorso maggio al Parlamento Europeo a Bruxelles. Quindi sì, è un qualcosa che è nato nello spazio del Teatro Patologico in via Cassia, ma che adesso sta girando il mondo e che celebreremo in queste due settimane di festival. Sì. Ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente, cioè sia il sito, l'ente, diciamo, produttore, l'ente organizzatore di questo festival, che è www.teatropatologico.org. Sì. Però diciamo che attivamente, fattivamente, per prenotare, chiedere informazioni e acquistare online, si può del Teatro Eliseo, che è www.teatroeliseo.com. Allora, ripetiamo il titolo di quest'anno, 1978-2018, legge 180, illusioni, sogni, speranze, Festival del Teatro Patologico al Teatro Eliseo dal 4 al 14 ottobre. Un saluto e un ringraziamento a uno dei curatori, Alessandro Corazzi. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Assolutamente, grazie mille sempre per lo spazio che dedichi al Teatro Patologico. Grazie davvero da parte anche di tutti i ragazzi della nostra associazione. Bene, a presto, ciao. Grazie ancora.